Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. Il primo soggiorno di Knecht nel monastero durò 2 anni. Al tempo in cui parliamo, egli ne aveva compiuti 36. Alla fine di quel periodo, nel convento di Maria Fels, circa 2 mesi dopo la sua lunga lettera al dirigente Dubois, fu chiamato un giorno nello studio dell'abate. Gervasius gli venne incontro con una lettera. «Mi onorano di un incarico per lei, stimatissimo», esclamò lieto, con quei suoi modi lenti e paterni, assumendo però subito il tono ironico che si era venuto formando per esprimere il non ancora chiarito rapporto di amicizia fra l'ordine ecclesiastico e il Castalio, e che, a dire il vero, era una creazione di padre Jacobus. «Tanto di cappello, però, al suo Ludi Magister. Quello sì che sa scrivere. A me ha scritto in latino, Dio sa perché». Il reverendo, dunque, mi scrive che laggiù si nutre il desiderio di vederla e abbracciarla dopo tanto tempo, e di stabilire fino a qual punto il lungo soggiorno fra noi semibarbari abbia esercitato su di lei un'influenza corruttrice nella morale e nello stile. Insomma, se ho ben capito e interpretato quest'ampio capolavoro letterario, lei si concede una licenza, e io sono pregato di rimandare a Waldzell il mio ospite per un periodo indeterminato, ma non per sempre, tant'è vero che quell'autorità intende rimandarla presto da noi, sempre che ci sia gradito. Ebbene, lei mi scuserà, non ho saputo interpretare degnamente tutte le finezze dello scritto, e del resto il Magister Thomas non se l'era neanche aspettato da me. Devo consegnarle questa letterina, e ora vada e rifletta se e quando desidera partire. Noi, mio caro, sentiremo la sua mancanza, e qualora dovesse rimanere lontano troppo a lungo, ci affretteremo a reclamarla presso la sua autorità. Nella lettera consegnata a Knecht era detto brevemente che gli veniva concessa una licenza perché potesse riposare e conferire coi superiori. Lo si aspettava tra poco a Waldzell. Con rapida decisione andò a trovare il padre, gli recò la notizia della licenza, gli spiegò come fosse rimasto sorpreso, scoprendo sotto la gioia del ritorno in patria anche quella del futuro ritorno al convento, e siccome questa gioia era dovuta soprattutto a lui, padre venerato, si era fatto coraggio e osava esporgli una grande preghiera di accoglierlo appena fosse rientrato nella sua scuola, sia pure soltanto per un'ora o due la settimana. Jacobus rise con ironia e formulò ancora una volta i più belli e beffardi elogi per la cultura Castalia, insuperabile e vasta, davanti alla quale un ingenuo fraticello come lui non poteva che sostare con muta ammirazione a scuotere la testa per lo stupore. Josef, però, aveva già capito che l'ironia non andava presa sul serio, e quando porse la mano al padre, si sentì dire gentilmente che non stesse in pensiero. Si sarebbe fatto tutto il possibile per accontentarlo. A Monteport salutò il vecchio Magister Musiche, che a sua volta, in gioventù, era stato ospite di Maria Fels e vi aveva studiato la musica benedettina, e ora ebbe molte cose da chiedergli. Knecht trovò il vecchio un po' più silenzioso e distratto, ma d'aspetto più robusto e più sereno dell'ultima volta. È vero però che prima di lasciarlo ripartire, il vecchio gli fece un discorso prezioso. «Ho sentito che sei diventato una specie di diplomatico. Professione poco bella, a dire il vero, ma pare che siano contenti di te. Tu ne penserai quello che vuoi, ma se non dovessi avere l'ambizione di rimanere per sempre in questa professione, guardati, Josef. Mi pare che ti si voglia accalappiare. Difenditi, ne hai tutto il diritto. No, no, non fare domande. Non dico altro. Vedrai da te». Il Ludi Magister fece meno domande di quante Knecht non avesse aspettate. Menzionò appena il corso dei principianti e gli studi di Josef nell'archivio musicale, ma non si saziava di ascoltare notizie sul conto di padre Jacobus, sul quale continuamente riportava il discorso. Non solo dalla grande gentilezza del Magister, ma quasi più ancora dal contegno di Dubois, dal quale il Magister l'aveva tosto mandato, Knecht poté capire che si era molto contenti di lui e della sua missione presso i benedettini. Hai svolto il tuo compito in modo eccellente, disse Dubois. Non avevo davvero buon fiuto allora, quando sconsigliavo di mandarti al convento. Se hai saputo acquistarti le simpatie non solo dell'abate ma anche del grande padre Jacobus, se hai saputo renderlo più favorevole alla Castalia, è molto più di quanto osassimo sperare. Knecht passò la maggior parte di quella festosa vacanza a Waldzell col gioco delle perle. Ripassò con Tegularius gli appunti che questi si era fatti durante un corso per i più progrediti tenuto dal Magister nei due ultimi semestri e, dopo i due anni di privazione, si buttò con tutte le sue energie nel nobile mondo del gioco, il cui fascino gli pareva altrettanto inseparabile dalla sua vita e altrettanto indispensabile quanto quello della musica. Soltanto negli ultimi giorni della licenza, il Ludi Magister riportò il discorso sulla missione di Josef a Maria Fels, sul suo prossimo avvenire e i relativi compiti. In tono familiare, ma poi con gravità e con sempre maggiore urgenza, gli parlò di un progetto delle autorità al quale la maggioranza dei maestri, il signor Dubois, tenevano molto. Il progetto, cioè, di istituire in avvenire una stabile rappresentanza della Castalia presso la Santa Sede di Roma. Era venuto, o almeno si approssimava, spiegò maestro Thomas, il momento storico di scavalcare l'antica frattura fra Roma e l'ordine, poiché in eventuali pericoli futuri avrebbero avuto, senza alcun dubbio, nemici comuni e sarebbero stati alleati naturali con un identico destino. «L'incarico che devo affidarti», disse ora il maestro, «è il seguente. Vorremmo istituire una stabile rappresentanza del nostro ordine presso il Vaticano, possibilmente con reciprocità. Ora, esiste un uomo a noi noto e raggiungibile, la cui voce conta moltissimo a Roma, padre Jacobus. Tu devi dunque ritornare al convento dei Benedettini, viverci come in passato, dedicarti agli studi, tenere un innocuo corso di gioco delle perle e impiegare tutta la tua cura e attenzione nel conquistarci a poco padre Jacobus e nel farti promettere di sostenere a Roma il nostro progetto. Questa volta dunque lo scopo della tua missione è ben definito. Quanto tempo tu debba impiegare per raggiungerlo è indifferente. Siamo del parere che ci vorrà almeno un anno, ma potrebbero essere anche due o più. Spero che sarai d'accordo con la proposta e ti prego di sollevare apertamente ogni obiezione che tu abbia da fare. Se credi, puoi prenderti qualche giorno per riflettere. Knecht, per nulla sorpreso dell'incarico, dichiarò che riteneva superfluo prendersi tempo. Accettò con obbedienza, ma soggiunse: «Voi sapete che missioni di questo genere Riescono bene quando l'incaricato non abbia da lottare contro proprie inibizioni e resistenze interiori. Per parte mia non ho alcuna resistenza contro l'incarico. Ne comprendo l'importanza e spero di poterlo svolgere. Sento però un certo timore e una certa apprensione per il mio avvenire. Abbiate la bontà, Magister, di ascoltare la mia personalissima ed egoistica confidenza. Come sapete, sono un giocatore di perle. Per la mia missione presso i padri ho trascurato gli studi 2 anni interi. Non ho assorbito alcuna nozione nuova. Ho tralasciato la mia arte e ora sarò impegnato almeno un altro anno e forse anche più. Mi spiacerebbe fare altri regressi. Perciò vorrei avere più di frequente qualche breve licenza per Waldzell e stare costantemente in comunicazione radio per seguire le lezioni e gli esercizi speciali del vostro seminario per progrediti. Concedo volentieri, rispose il maestro in un tono che già sapeva di commiato. Se non che Knecht alzò la voce e aggiunse anche un'altra cosa. Temeva, disse, che qualora il tentativo di Maria Fels fosse fallito, lo si mandasse a Roma o in genere gli si affidassero compiti diplomatici. Il magister aggrottò la fronte e levò un dito ammonitore. Ascolta. Tu possiedi in certo grado il dono di renderti accetto e simpatico, sicché un malevolo potrebbe quasi definirti incantatore. Ritengo che anche questo dono abbia indotto le autorità a rimandarti a Maria Fels. Ti raccomando però di non abusare del tuo dono e non cercare di forzare il prezzo dei tuoi meriti. Se avrai fortuna con padre Jacobus, vuol dire che sarà venuto il momento buono per presentare alle autorità una tua richiesta personale. Oggi mi pare troppo presto. Quando sarai pronto per la partenza, fammelo sapere. Joseph ascoltò quelle parole in silenzio, accogliendo il benevolo giudizio in esse contenuto più della ramanzina, e poco dopo ritornò a Maria Fels. Thank you. Joseph sentiva adesso con piacere la sicurezza che viene dall'avere un incarico esattamente definito, importante e onorevole, e che in un punto coincideva coi suoi propri desideri: stare possibilmente vicino a padre Jacobus e conquistarne interamente l'amicizia. È vero che padre Jacobus non era affatto cambiato. La sua diffidenza contro la mentalità Castalia era sempre vigile e, siccome non vi trovava un saldo fondamento religioso, dubitava che fosse capace e degna di educare un tipo di uomo da potersi prendere davvero sul serio. Benché Kneck stesso rappresentasse un nobile frutto di quell'educazione. Anche quando, attraverso l'esempio e l'insegnamento di Kneck, fu giunto per quanto era possibile a una specie di conversione ed ebbe deciso di favorire l'avvicinamento della Castalia a Roma, quella diffidenza non fu mai del tutto sopita. Knecht ebbe la straordinaria fortuna di trovare a sua disposizione il campo più vasto e più idoneo al suo compito di conquistare il padre alla Castalia e di convincerlo del valore di un'alleanza. In questo modo gli veniva offerta una situazione che rispondeva a ogni pensabile desiderio, tanto da fargli provare, ben presto, quasi un rimorso. Gli pareva infatti umiliante e non degno trovarsi di fronte a quell'uomo venerato che gli si abbandonava fiducioso e passeggiava con lui su e giù per il chiostro, mentre in fondo era scopo e oggetto di segrete mire politiche. Knecht non avrebbe sopportato a lungo, in silenzio, quella situazione e già stava pensando al modo di chiarirla allorché, con sua grande sorpresa, il vecchio lo prevenne. «Caro amico, abbiamo trovato per davvero una forma di scambio molto piacevole e spero anche feconda. Le due attività che in tutta la vita mi furono più care, l'imparare e l'insegnare, si sono combinate bene nelle nostre comuni ore di lavoro e ciò è avvenuto proprio nel momento giusto, perché incomincio a invecchiare e non avrei potuto figurarmi una cura più efficace e rinfrescante dei nostri studi. In quanto a me, sono certo colui che trae vantaggio da questi scambi. Per contro, non sono altrettanto sicuro se anche lei, caro amico, e le persone dalle quali è mandato e al cui servizio si trova, ne ricaveranno il guadagno che forse sperano. Vorrei prevenire una futura delusione ed evitare ogni ambiguità tra noi. Perciò, da quel vecchio praticone che sono, mi consenta una domanda. Si intende che più volte mi sono scervellato per spiegarmi il suo soggiorno, pur a me gradito, nel nostro cenobio. Fino alla sua recente licenza, credeti di poter stabilire che il significato e lo scopo della sua presenza fra noi non fossero affatto chiari nemmeno a lei. Dica, ho visto giusto? Alla risposta affermativa di Knecht, continuò. Bene, dopo il suo ritorno da quella licenza, ho notato un mutamento. Lei non si preoccupa più né si rompe il capo per afferrare lo scopo della sua permanenza, perché adesso lo sa. Dico bene? Dunque non mi sono ingannato. Forse è esatta anche l'idea che mi faccio della sua presenza. Lei ha un incarico diplomatico che non riguarda né il convento né il nostro abate, ma riguarda me. Come vede, del suo segreto non rimane più molto. E per chiarire interamente la situazione, faccio l'ultimo passo e le consiglio di comunicarmi anche il resto. Qual è dunque il suo compito? A proposito dell'incarico del quale Knecht lo mise a parte, padre Jacobus osservò: «I suoi signori in Castalia non sono davvero diplomatici geniali, ma pur sempre considerevoli, e hanno anche fortuna. Rifletterò in tutta calma sul suo incarico. La mia decisione dipenderà in parte dal punto fino al quale lei riuscirà a introdurmi nella Costituzione Castalia, anzi, nel mondo di Dee Castalio, e a rendermeli plausibili. Non c'è fretta, possiamo prenderci tempo. Se vuole, consideri il mio modo di agire come una specie di lezione. Noi siamo due diplomatici e l'incontro dei diplomatici è sempre una battaglia, anche se assume forme amichevoli. Nella nostra battaglia mi ero trovato momentaneamente in svantaggio, Mi era sfuggita la legge dell'azione. Lei ne sapeva più di me. Adesso abbiamo trovato la parità. La mossa è riuscita. Dunque, era giusta. Knecht era invidiato da molta gente che lo conosceva o aveva soltanto sentito parlare di lui, ma nulla nella sua vita sembrò invidiabile ai suoi inferiori quanto la sua relazione col vecchio padre benedettino, la quale era un tempo rapporto di allievo e di maestro e consisteva nel dare e ricevere, nell'essere conquistato e conquistare, nell'essere amicizia e intima comunione di lavoro. Da lui, Knecht imparò ciò che forse non avrebbe potuto imparare nella Castalia di allora. Apprese non solo la visione generale dei metodi e dei mezzi di conoscenza e di indagine storica e fece un primo esercizio nella loro applicazione, ma andò al di là e visse la storia non come materia scientifica, bensì come realtà vivente. E per giungere a ciò, occorre trasformare e potenziare la propria esistenza personale sino a farla diventare storia. L'erudito Jacobus era non soltanto un veggente e sapiente, ma anche un uomo che partecipava alla vita e contribuiva a crearla, tanto è vero che non si era servito della posizione assegnatagli dal destino per crogiolarsi in benessere contemplativo, ma aveva aperto la finestra del mondo e accolto in cuore i bisogni e le intuizioni del suo tempo. Ora, anche se nei colloqui fra insegnante e alunno non si parlava forse mai della politica presente, la posizione e l'attività politica del benedettino avevano compenetrato talmente il suo modo di considerare la storia universale che ciascuna delle sue opinioni, ciascuno sguardo ai complicati conflitti e alle beghe del mondo rivelava anche il politico esperto e pratico, un politico non ambizioso o intrigante, né una guida o un dominatore orgoglioso, bensì un consigliere e mediatore, un uomo la cui attività era moderata dalla saggezza, le cui aspirazioni erano addolcite da una larga visione dell'insufficienza e delle difficoltà della natura umana, al quale però la fama, l'esperienza, la pratica dell'uomo e delle cose, e oltre a ciò, il disinteresse e la probità conferivano un potere considerevole. Quando arrivò a Mariafels, Knecht ignorava tutte queste cose. Non conosceva neppure il nome di padre Jacobus. Nello stesso tempo in cui il campo dei suoi studi andava allargandosi, Knecht si vide costretto a riconsiderare, a esaminare e rinvigorire la propria base spirituale e storica. Nel tentativo di esporre al padre l'essenza del proprio ordine, scovò il punto più debole della cultura sua e di tutta la Castalia, ossia vide che le situazioni storiche, le quali a suo tempo avevano reso possibile e persino richiesto il sorgere dell'ordine e tutto quanto ne era conseguito, gli si potevano presentare alla mente soltanto in una visione scialba e schematica, priva di ordine e di evidenza. Siccome il padre era tutt'altro che un allievo passivo, ne nacque una collaborazione molto intensa, uno scambio vivissimo. Mentre egli cercava di esporre la storia del proprio ordine, Jacobus lo aiutava a vedere e a vivere quella storia nel suo giusto aspetto e a trovarne le radici nella storia generale del mondo e degli stati. Vedremo ancora come quelle vivaci discussioni, portate talvolta dall'indole del padre alla massima violenza, abbiano dato frutti ancora dopo anni e abbiano continuato ad agire su Knecht sino alla fine. D'altro canto, tutto il contegno del padre negli anni successivi dimostra quanto attentamente abbia seguito quelle lezioni e quanto a fondo abbia conosciuto e riconosciuto la Castalia. L'intesa fra questa e Roma, che sussiste ancora oggi, fu opera di questi due uomini. Daniela Di Giusto ha letto Il gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse, riduzione di Giovanni Piccioni, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.